24, i gialli della storia. E di norma sarebbero entrate 350 persone. Fu pronta ad ospitarne 5.000. Davvero pensate di attraversare l'Atlantico con questa carretta? La flotta inglese era lì ad aspettarci. Era l'incrociatore Ajax. Ci puntarono i riflettori da ogni parte. L'Inghilterra avrebbe avuto sulla coscienza il sangue di 4.500 ebrei sopravvissuti alla Shoah. Il giallo che raccontiamo oggi a Mix 24 è quello di Exodus 1947, la nave che doveva portare in Palestina 4.500 ebrei scampati ai campi di concentramento e che diventerà un simbolo e un riferimento per la creazione dello Stato di Israele. Questo incredibile giallo comincia nel 1945, quando gli alleati festeggiano la fine della guerra. È un momento di felicità in tutto il mondo per la fine di un incubo. Ma in Europa ci sono più di 8 milioni di profughi. Tra questi la maggioranza sono ebrei, uomini e donne che hanno perso tutto, parenti, amici, e non sanno dove andare. In un primo momento queste migliaia di rifugiati vengono ospitati in alcuni campi di accoglienza in Germania. Ognuno di loro sogna un futuro diverso, lontano dagli orrori che hanno vissuto. Per loro l'unica speranza è la Palestina, la terra promessa. Ma la Palestina è sotto controllo degli inglesi dal 1922, inglesi che gestiscono con fatica i continui scontri tra gli arabi e gli ebrei che vivono lì. Gli inglesi erano molto ostili all'idea dell'arrivo di masse di ebrei in Palestina, e ciò per varie ragioni. Innanzitutto, a causa del petrolio, gli inglesi non volevano in nessun modo urtare gli arabi. In secondo luogo, la Gran Bretagna voleva mantenere il più possibile il prestigio di un impero ormai al tramonto. In terzo luogo, gli inglesi non volevano permettere a nessuno di interferire sulla loro gestione di quell'area. Era Ben Trash del Mariner Museum di Newport. Il governo britannico da tempo ha deciso di controllare gli accessi degli ebrei in Palestina e anche dopo la fine della guerra non cambia atteggiamento, permettendo solo a 1.500 persone al mese l'ingresso nella Terra Santa. Questo incrementa l'immigrazione illegale e allora la Gran Bretagna passa alle maniere forti, istituisce un blocco navale per intercettare le navi che tentano l'accesso illegale e portano a Cipro i profughi. Nel 1945 a New York, David Ben-Gurion, presidente dell'agenzia ebraica, con alcuni investitori riesce a ottenere i fondi per una serie di operazioni segrete, operazioni coordinate dall'Haganah, che è la resistenza ebraica clandestina, per riuscire a far raggiungere la Palestina a un maggior numero di persone possibile. E il modo più semplice per farlo è via mare. L'Haganah ha agenti in tutto il mondo che si attivano per assolvere il loro compito. In Italia incontrano Gualtiero Malpurgo, giovane ingegnere navale. Sapeva che io avevo lavorato fino alle leggi razziali nei cantieri navali riuniti di Genova e che quindi ero pratico di cose navali, e avevano bisogno della mia opera. Mi ha detto che era disinteressata perché non c'erano compensi, che il pericolo era grande perché si poteva finire in galera con gli inglesi, perché se avessero arrestato, e se avessi accettato sarebbero stati grati. Ho accettato. L'Haganah comincia a cercare le imbarcazioni che serviranno allo scopo, identifica in un vecchio e malandato scafo, la President Warfield, quello che fa al caso loro. e decidono di comprarla per $50,000, una cifra incredibile, e per questa operazione creano una società fittizia per non insospettire gli inglesi. Il primo ad avere essere un armatore fasullo sono stato io. Mi hanno mandato, era dicembre del 1945, mi hanno mandato a Genova da un notaio, mi hanno messo in mano degli assegni circolari, ho pagato una valanga di milioni di lire di allora senza sapere niente, ho firmato in bianco un'assicurazione e poi mi hanno portato a vedere il mio acquisto. Era una navicella che si chiamava Endertà. E in realtà era in cattive condizioni, l'abbiamo allestita come possibile. La nave è in pessime condizioni e viene restaurata nel più assoluto segreto da un gruppo di volontari per poter così affrontare l'Atlantico. L'equipaggio è giovane, inesperto, pieno di entusiasmo però. Si può partire per l'Europa. È il 25 febbraio del 1947. Ma gli inglesi scoprono quali sono le intenzioni di quella nave e cominciano a darle la caccia. Non c'è dubbio che gli inglesi sapessero a che cosa serviva la nave. Era un tipo di operazione che ormai conoscevano molto bene. Ci furono naturalmente molti tentativi di fermare l'imbarcazione, ma nessuno ebbe successo. Era Jennifer Priest. Tutti i tentativi di bloccare la nave si rivelano un insuccesso. E allora il ministro degli esteri inglese, Bevin, convinto che Londra debba schierarsi con gli arabi, visto che sono loro a controllare il petrolio, chiede ufficialmente che la nave venga fermata ad ogni costo. Per noi Ernest Bevin era un nemico giurato e ricopriva una carica molto delicata. Ma Israele non apparteneva agli inglesi. Era la terra dei nostri padri. Gli inglesi erano solo degli imperialisti e per questo erano certi di essere invincibili. Era Bernard Marx, primo ufficiale della Warfield. Superando mille difficoltà, dopo 2 mesi di navigazione, la nave arriva in Italia e a Porto Venere, in Liguria, si comincia a prepararla per ospitare migliaia di passeggeri, come ci raccontano David Holly, Bernard Marx e Gualtiero Malpurgo. In quell'imbarcazione di norma sarebbero entrate 350 persone, ma noi trasformammo la nave in modo che, dopo pochi mesi, fu pronta ad ospitarne 5.000. Costruimmo delle specie di scaffalature che permettessero alle persone di sdraiarsi. Ognuna era larga poco più di mezzo metro. Quella era il posto per ogni passeggero. A Genova andavo in porto, in una lontana banchina, probabilmente c'era una specie di carretta del mare, perché erano queste, erano specie di navicelle di terza, quarta mano, chi lo sa. Era un lavoro fatto a tipo di cellule. Io non conoscevo neanche il nome di chi mi stava lavorando accanto. In quei giorni erano apparsi a Milano e in tutte le città i tubi innocenti. I tubi innocenti sono quelle strutture metalliche che servono per le costruzioni edilizie e che a me servivano molto, perché erano questi tubi che io mettevo nella stiva dopo averla liberata completamente e si faceva un'incastellatura di queste travi metalliche e fra una e l'altra si metteva una striscia di tela di juta lunga 2 metri, larga solo 60 centimetri e con un'altezza di 60 o 70 centimetri per dare il maggiore cuccette possibile alla stiva. La nave è pronta. Pronta a tutto, anche a affrontare un attacco inglese. Il ponte è ricoperto da una rete metallica. Si chiudono tutti i punti d'accesso, sia sopra che sotto coperta. Intanto la Ghana raccoglie in tutta Europa le migliaia di ebrei che dovranno imbarcarsi sulla nave. A questo punto la Warfield viene spostata a Sète, in Francia, dove si procederà all'imbarco. Saranno 4.554 gli ebrei caricati sulla nave, 11 volte di più di quanti avrebbe potuto trasportare. In quei giorni il ministro Bevin è in Francia per una conferenza e lì viene informato dell'imminente partenza della Warfield. E allora, rivolgendosi alla sua controparte francese Didot, lo invita a fermare a tutti i costi la partenza della nave con qualsiasi mezzo. La protesta formale del ministro inglese con il governo francese rischia effettivamente di bloccare tutto. Ma non basta. E allora la nave parte di notte senza assistenza portuale, di fatto fugge. Ma i problemi si presentano subito, la nave si incaglia in una secca, come racconta Bill Millman. Pensavamo di non farcela. Dietro a noi vedevamo già pronta la polizia francese e davanti a noi c'era un rimorchiatore con il pilota che ci gridava: «Fermi, non potete andare avanti!» Ho cominciato a manovrare avanti e indietro e sono riuscito a disincagliare la nave. Ho virato a destra, poi a sinistra e alla fine sono riuscito a fare rotta verso il mare aperto. Quando in mare aperto la nave si trova di fronte l'incrociatore Ajax e altri 5 cacciatorpedinieri. Gli inglesi non mollano, ma anche gli ebrei a bordo della Warfield sono determinati e coscienti che gli inglesi non oseranno affondare una nave carica di sopravvissuti. Sono previsti 10 giorni di navigazione. E le condizioni sono veramente, veramente molto difficili, come racconta Gualtiero Malpurri. Con una radio ricetrasmittente ricevevamo i lamenti di questa povera gente, che non era povera in quanto era contenta di essersi imbarcata, ma soffrivano perché cominciavano a lamentarsi che le gallette imbarcate erano troppo salate, che l'acqua non andava bene, che era poca, non potevano stare all'interno perché il mare era troppo mosso, se andavano fuori erano spazzati da queste onde tremende. E il capo diceva per radio: dovete resistere perché non c'è nessuno nel Mediterraneo che vi possa accogliere. La Warfield continua il suo viaggio verso la Palestina in mezzo a mille difficoltà. Il governo inglese tenta in ogni modo di bloccare la nave, ma la determinazione dell'equipaggio e dei profughi è enorme. La Ghana ordina all'equipaggio di dirigersi verso le coste di Tel Aviv, dove le persone a bordo avrebbero potuto tuffarsi in acqua per raggiungere a nuoto la riva e poi mescolarsi con la popolazione sulla spiaggia. A quel momento la nave si chiamerà Exodus 1947. La nave continua il suo viaggio, sempre seguita dalle navi inglesi. Poi il 18 luglio, nella notte, la marina inglese sferra il primo attacco. Ci puntarono i riflettori da ogni parte. Sembrava quasi che quei raggi ci perforassero la pelle. Ci dissero di arrenderci, che ormai eravamo in acque territoriali della Palestina e che dovevamo tutti considerarci in arresto. Ma mentivano. Eravamo ancora a 30 miglia di distanza dalle acque palestinesi. Era Bernard Marx. L'Exodus 1947 viene speronata e aggredita. Centinaia di soldati si preparano ad abbordare la nave usando delle piattaforme speciali fatte di legno. Una vera e propria battaglia. 6 soldati inglesi riescono a salire sulla nave con le armi in mano e cominciano a picchiare con i manganelli. Ma gli uomini a bordo rispondono con qualunque oggetto si trovi nelle loro mani. i soldati inglesi resistono e cercano di raggiungere il ponte di comando, come racconta Matt Nutt. Millman cominciò a menare i pugni a più non posso. Poi afferrò uno per il collo, stava per buttarlo in mare, ma l'altro inglese tirò fuori una pistola e gli sparò alla testa. Fortunatamente il proiettile rimbalzò sulla mascella e schizzò via. In sostanza, Bill deve la sua vita alla mascella. La battaglia continua per tutta la notte. Nella ristrutturazione della nave era stata concepita una seconda cabina di pilotaggio sotto il ponte. E da lì è possibile pilotare la Exodus 1947 per cercare di sfuggire all'accerchiamento inglese. La nave viene colpita più di 50 volte dagli inglesi. Anche gli inglesi sono stupiti dalla capacità di resistenza dei profughi. Ma le forze britanniche in campo sono troppo forti e alla fine l'Exodus decide di arrendersi. Ma a questo punto per gli inglesi si pone un altro problema: che cosa fare di questi 4.500 profughi? Dopo giorni di incertezza, la nave viene condotta e trattenuta nel porto palestinese di Haifa. Il governo inglese nega di aver usato forze massicce per questa operazione, ma il bilancio dei danni ovviamente lo smentisce. Alla fine della battaglia si contano 120 ebrei feriti e 3 morti. Ad Haifa i prigionieri mettono piede solo per poco tempo sul territorio palestinese, l'agognata Palestina. I feriti vengono trasportati presso l'ospedale locale, gli altri vengono disinfettati col DDT e poi, una volta separati gli uomini dalle donne, caricati su 3 navi prigione. A bordo dell'Exodus tutti pensano, vedendo le coste della Palestina che si allontanano, di essere condotti a Cipro, dove ci sono già rifugiati più di 25.000 immigrati clandestini. Ma il ministro Bevin opta per una diversa soluzione che stupisce il mondo intero. Saranno riportati dove erano partiti. Come commenta Jennifer Priest. Era come se Bevin volesse dimostrare che non veniva a patti con gli ebrei. Pensavate che vi avremmo spedito a Cipro? E invece no. Vi rimandiamo da dove siete venuti. Se ne occuperanno i francesi di voi. Dopo 17 giorni di navigazione, le navi arrivano sulle coste francesi. Ma gli ebrei si rifiutano di scendere dalle navi per essere condotti nei campi profughi. L'unica possibilità che hanno gli inglesi è quella di convincere gli ebrei a scendere dalle navi con la fame. Ma anche questo tentativo non dà nessun risultato. Per loro, per gli ebrei, la posta in gioco è troppo alta. C'è in gioco la stessa dignità di un popolo. Intanto questa storia rimbalza sulle pagine dei giornali di tutto il mondo. Adesso sono loro a fare uno sciopero della fame. Gli ebrei, di 24 ore, realizzando uno striscione che dice: apriteci le porte della Palestina, è la nostra unica speranza, e intonando il loro canto di speranza. È uno stallo che dura un mese, nel quale solo 130 persone abbandonano le navi e solo per gravi motivi di salute. Ancora Jennifer Priest. Dopo un mese gli inglesi si resero conto che non si poteva continuare così e dissero: mettiamo fine a questa storia, rimetteremo le navi in mare e li rimanderemo al loro luogo d'origine, li ricacceremo in Germania, che se la vedano i tedeschi. Vista la situazione insostenibile, gli inglesi decidono di portare le navi in Germania, ad Amburgo, e dopo 17 giorni di navigazione arrivano al porto di Amburgo. Anche qui non è facile convincere gli ebrei a lasciare le navi e sarà necessario l'uso della forza. Alla fine, questi 4.500 sopravvissuti vengono condotti in un campo vicino ad Amburgo che ricorda i campi che gli ebrei hanno appena lasciato. Tra i profughi cresce la depressione, Nat Nadler che ne parla. La depressione. Non dimentichiamoci che quelle persone erano sopravvissute ai campi di sterminio. Quegli ebrei cercavano solo di raggiungere la Palestina. Sognavano di abitare nella terra dei loro padri e invece vennero ricacciati in quei terribili campi della morte. Arrivati nei campi, gli ebrei danno false generalità, esattamente come capita anche oggi con i profughi. Dicono di chiamarsi Greta Garbo o Charlie Chaplin e rispondono ad ogni domanda con una sola parola: Palestina. Gli inglesi hanno vinto questa battaglia, ma l'opinione pubblica è contro di loro. La vicenda dell'Exodus è sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. L'Haganah, che sta immaginando nuovi trasporti, fornisce ai passeggeri della Exodus un certificato che darà un diritto di priorità nei nuovi imbarchi. Cercarono di dare ai certificati una qualche ufficialità. Ci scrissero sopra: questo documento ti dà diritto ad entrare in Israele grazie alla tua esperienza sulla Exodus. Poi, in un angolo, c'era un numero. Il nome della persona non compariva mai. Dopo tutto quello che avevano passato, quegli ebrei erano di nuovo solo un numero. Era Jennifer Priest a raccontare questa vicenda. E l'Haganah, lo ripeto, il servizio segreto ebraico, organizza nuovi trasporti. Alla fine, anche i passeggeri dell'Exodus 1947 raggiungono la terra promessa. E la loro vicenda, il coraggio, la determinazione che l'ha caratterizzata, sarà un punto di riferimento fondamentale per la nascita dello Stato di Israele. È il 5 maggio del 1948. Ho contribuito alla nascita dello Stato di Israele. Quando ci ripenso non mi sembra vero. Ancora non riesco a crederci. Invece è successo. È tutto vero.